Time Out di Luca Mastrantonio. Ultime confuse notizie dal mondo dei copioni. Roberto Saviano no, non fa parte di questa classe. Roberto Saviano non ha copiato dai giornali locali per Gomorra, lo ha stabilito il Tribunale di Napoli che anzi ha detto sono quei giornali che spesso hanno utilizzato senza autorizzazione degli articoli di Saviano su Repubblica. Gio Squillo dice che Lady Gaga, la grandissima stella del pop, ha copiato da lei. Può far sorridere questa notizia, ma in realtà, pensate, Albano ha vinto una causa analoga con Michael Jackson. E Daniele Luttazzi è stato trovato qualche mese fa con le mani nel barattolo di marmellata della comicità americana perché ha tradotto letteralmente monologhi e battute di colleghi americani. Ma è possibile essere creativi, essere grandi autori senza dover attingere al materiale di altri? Benvenuti a Time Out. Io sono Luca Mastrantonio e passeremo assieme una mezz'ora di riflessione il sabato e la domenica mattina. Schiacceremo il tasto pausa dal flusso di notizie, dall'aggregatore di notizie che ci bombardano, spesso ci confondono e svuotano di senso anche le notizie. Quest'oggi parleremo del plagio. Il plagio è un'accusa infamante quando viene rivolta a un creativo, ad uno scrittore, a qualcuno che magari passa anni per scrivere un romanzo che poi magari vince un premio come il premio Strega, eppure con un aiutino. E l'aiutino viene da Tolstoi perché in vita di Melania Mazzucco ci sono chiaramente dei brani di Tolstoi. Altre volte vengono pescati Vittorio Sgarbi con anche lui, con degli aiutini che gli arrivano da addirittura la madre o il professor Umberto Galimberti che utilizza tesi di studenti senza neanche citarli. E allora riconsegniamo a loro questi compiti con il voto che si meritano. Ragazzi, buongiorno a tutti. Ho portato i vostri compiti, corretti. Vediamo. Augias Corrado, 4. Per il tuo libro Disputa su Dio e dintorni hai copiato dal biologo Wilson senza neanche averlo letto. Dovresti applicarti di più sui libri, fare i compiti e meno televisione. Galimberti Umberto, 5 meno. Professore, copiare da una studentessa, dalla sua tesi di laurea, senza neanche citarla. Mazzucco Melania, Vita mi è piaciuto, è un ottimo romanzo, ma quelle pagine di Tolstoi, non potevi copiarle meglio? Hai vinto pure un premio Strega. Tolstoi, mica è un autore sconosciuto. 4,5, mi spiace, ti rifarai. Sgarbi, Vittorio, può smettere di usare il cellulare almeno in classe? Ascolti bene, Sgarbi, lei non solo ha copiato una prefazione per il volume sul Botticelli, ma poi ha pure dato la colpa a sua madre. Non si vergogna? Impari ad assumersi le sue responsabilità. Voto 5. E dica a quella povera donna di sua madre che voglio un colloquio. Abbiamo sentito un'immaginaria consegna dei compiti di alunni un po' lazzaroni, professori, scrittori che vincono premi, che insegnano da una cattedra o da un televisore, ma hanno copiato. E allora la domanda che oggi ci dobbiamo chiedere è: abbiamo sbagliato noi, le scuole che abbiamo frequentato, dove ci dicevano di non copiare, o forse qualcosa sta cambiando? Adesso bisogna copiare, bene, veloci, meglio. Ne parleremo assieme con alcuni addetti ai lavori, anche con un imputato, Vittorio Sgarbi, che ha accettato di confrontarsi con noi. Eccolo, sono qua. Eccoci qua, non scappare. Prima di affrontare con te il perché e il per come sui banchi si copia, volevamo anche raccontare ai nostri ascoltatori le giustificazioni degli altri che invece non si sono fatti vivi. Abbiamo i filosofi come Augias e Galimberti che dicono: poco tempo, molto lavoro, devo produrre tanto e quindi ho dovuto prendere dei testi e mi sono dimenticato di citare l'autore. Melania Mazzucco invece l'ha buttata su Freud, ha detto che guerra e pace le era piaciuto così tanto in età adolescenziale che forse scrivendo Vita, qualche pagina è venuta fuori. Quindi immaginiamo un compagno di classe di nome Freud che le passa guerra e pace. Non è il caso di Vittorio Sgarbi, che invece ha votato il sacco e ha detto: sì, c'è stato un errore nella bottega, un assistente ha preso un testo, ha messo il mio nome, ma scopriremo che quell'assistente è una persona molto particolare. Vittorio Sgarbi, ci spieghi bene. Beh, intanto in premessa tutto quello che dite è smentito da uno dei testi più belli del Novecento, che è Pierre Ménard, l'autore del Chisciotte di Borges, il quale indica come in trance una condizione molto singolare, cioè tre capitoli del Don Chisciotte riscritti nel 1930 da Pierre Ménard senza averli copiati, ma comunque si è andata in ogni caso stabilendo un testo diverso, perché diverso è il contesto storico di quei tre capitoli nel 1930 rispetto al Don Chisciotte dell'epoca sua. Quindi questa posizione vale ovviamente per Tolstoi, vale per tutto quello che è ripreso da un testo molto lontano. Nel caso mio invece è proprio un prodotto di bottega abbastanza modesto e abbastanza convenzionale. Nel caso di Botticelli, evidentemente io non avevo fatto una conferenza e la richiesta di avere un opuscolo su Botticelli è stata fatta mentre io avevo detto prendete il materiale e trascrivetelo. Non trovando su Botticelli, hanno probabilmente preso materiale, copiato in modo abbastanza anche molto poco curato ai mezzi del colore da di cosa valorosa come Mina Bacci, la quale aveva scritto delle cose però poco diverse da quella che avevo scritto io, cioè ha raccontato la biografia, le opere, e quindi io non ho né saputo che quella era la fonte, né visto il testo mio che è stato mandato al giornale, né visto la pubblicazione, per cui quando improvvisamente mi è stato comunicato sono caduto dalle nuvole dicendo non lo so, non credo, ma certamente quello che è avvenuto è frutto di una bottega nella quale ci sono assistenti che lavorano, ma c'è soprattutto mia madre, la quale molto attenta alle commissioni dei giornali e preoccupata che io non rispondessi a una scadenza, avrà evidentemente detto prendiamo un po' di materiale e non trovando quello di suo figlio ha preso quello dei maestri del colore. Qualcuno che aveva i maestri del colore e il testo mio che io non ho mai visto, il testo mio neanche pubblicato, ha indicato questa copiatura precisa e colpevole di cui io mi sono scusato ma nella inconsapevolezza, cioè la colpa sarebbe particolarmente grave se uno copiasse qualcosa e poi se ne dovesse vergognare perché l'ha fatto con dolo. In questo caso io me ne vergogno rispetto al fatto che la cosa è accaduta, ma nella mia totale inconsapevolezza e pensando di avere tanto materiale, sufficiente materiale da poter coprire anche una biografia di Botticelli. Come... Benissimo, quindi non è un caso di cleptomania, di questo ce ne rallegriamo altamente. Sì, è proprio andato in questo modo, d'altra parte è ragione comunque di rammarico, ma bisogna dire che se uno lo va a leggere, ciò che era richiesto era talmente compilativo e divulgativo che sarebbe comunque stato prodotto di bottega, anche se ispirato magari a delle cose veramente mie, mentre in questo caso io avevo invece messo il mio nome su un testo che era stato scritto da un'altra persona, peraltro bravissima. Benissimo, ti ringraziamo per l'onestà intellettuale, per averci raccontato come funziona, anche con l'aiuto di mamma, la tua bottega. Grazie. Grazie a te. L'anno scorso portavo in giro uno spettacolo, si chiamava Satiricon, no? E all'interno c'era questa battuta. Come fai a dire quando una mosca scoreggia? Improvvisamente vola dritta. Bonoli si viene a vedere questo mio monologo a Roma, 4 mesi dopo prende, no, Striscia la Notizia al posto di Greggio e Iacchetti e durante la sua improvvisazione dice questa battuta, col gesto, tutto quanto. Tremo al pensiero che uno possa pensare, ecco questa battuta la dieta Bonoli, Satiricon, no, mi dà fastidio questa cosa, no? Ok. You know how you can tell when a moth farts? He flies in a straight line. E ci sono settori come la comicità, l'umorismo, dove a volte una battuta può circolare nell'aria, può venire intercettata, a volte i riferimenti sono comuni. E siamo in linea con un grande autore di umorismo, uno scrittore in libreria anche a costo di mentire, Enrico Vaime. E buongiorno Vaime. Buongiorno Luca. Nel libro lei racconta che tra i dolori veramente più lancinanti per un autore è venire copiato. Le è successo? Naturalmente è successo a tutti. Un po' perché ci sono in giro dei ladri, non vorrei sconvolgere adesso l'ascoltatore, ma insomma ci sono i ladri e quindi ci sono in tutti i settori, ci sono anche nel nostro. E poi perché è un settore molto delicato, cioè una battuta con un piccolo cambiamento può cambiare significato, quindi uno pensa di non aver rubato, ma in effetti ha preso lo spunto da un argomento di un altro e corrompendolo alla sua maniera lo ha fatto suo. Questa è un'operazione tollerata, ma secondo me molto fastidiosa per chi vive di queste piccole cose, ma d'altronde dobbiamo abituarci, è sempre stato. Il plagio, da noi si dice ogni 3 citazioni è plagio. Ogni tanto uno dice, no, guarda, non ho preso la battuta, era una citazione implicita. Quindi vi rubano il motorino, cambiano la targa e dicono che infatti, il motorino... quella è la citazione. E loro... E c'è un elefante, diciamo, nel salotto, un grande autore, un grande nome, Daniele Luttazzi, che è stato inchiodato da un video, ha copiosamente, diciamo, ha fatto ogni tanto forse una citazione... Vogliamo dire, ha tradotto? Ha tradotto, esatto, ha fatto delle cover. Sì, purtroppo è... È spiazzante però, scoprirlo. Io sono rimasto malissimo, devo dire la verità. Ci ha creduto, all'inizio forse non ci ha neanche creduto, immagino, per la stima. No, infatti ho aspettato molto prima di arrendermi a una notizia così, così triste, così brutta, perché appunto riguarda una persona che ha avuto la mia stima e non riesco a rassegnarmi a considerarlo un... diciamo un fanatico della citazione un po' troppo fedele all'originale. Concluderei con una constatazione anche qui spaesante, perché lei, diciamo, tra i colleghi forse è uno dei pochi che non ha problemi ad affrontare l'argomento, perché su Luttazzi, che ha vissuto sicuramente ben altri silenzi più coatti, però su questa vicenda i colleghi comici non vogliono parlare, quasi ci fosse qualcosa di un patto tacito, una difesa di casta, cos'è? Ci aiuti a capire. Oppure è un'abitudine diffusa, per cui ognuno qualche volta avrà fatto una cosa, magari più in piccolo, la stessa cosa. Ah, quindi tutela, diciamo, il reato. La connivenza non la ammetto, insomma, certo. Cioè, una cosa è avvenuta, che lo si dica, che lo si prenda atto, non è un omicidio, ecco. Benissimo. Ringraziamo Enrico Vaime di essere stati con noi. Grazie a voi. Ciao. E quindi, insomma, non lasciate le vostre battute incustodite, perché se Luttazzi o qualcuno come lui passa da quelle parti potreste non trovarla più. Perché ci vuole orecchio, bisogna avere il pacco immerso dentro il secchio, bisogna averlo tutto, anzi parecchio, per fare certe cose ci vuole orecchio, bisogna avere orecchio. Ci vuole orecchio per riconoscere se qualcuno ha copiato, ci vuole orecchio per trovare del materiale buono da copiare, forse ci vuole anche l'occhio per non farsi beccare tra i banchi di scuola. Dammi tre parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare, è l'amore che ti sole, cuore, amore, tre parole, forse sono già troppe, perché quando si parla di appunto amore, di cuore, di fiore, le rime sono sempre inevitabili, sono sempre quelle. Forse la difficoltà anche per uno scrittore come di un musicista è quella di variare. Ma cerchiamo di capire se una pratica così consolidata, cerchiamo di capirlo con uno scrittore giovane, che quindi per emergere potrebbe voler avere un aiutino, qualcuno che gli passa il compito, qualcuno che copia. Andrea Di Consoli, che ha anche già vinto dei premi, quindi forse ha già copiato o forse non ne ha bisogno, ha vinto il Carlo Levi, ha vinto il Dario Bellezza, fa anche l'editore per H Editrice, quindi è interno a questo meccanismo che forse a volte produce dei prodotti discutibili. Buongiorno Andrea Di Consoli. Buongiorno a voi. Allora Di Consoli, ci aiuti a capire appunto cosa può succedere, perché uno scrittore si mette a copiare quando forse già dalle elementari gli diceva la maestra che non si copia. Lei ha mai copiato? No, io non ho mai copiato perché mi vergognerei, insomma, è atroce copiare, sarebbe davvero atroce. E però a volte vedo che lo si fa ed è incomprensibile, perché scrivere è davvero una cosa che dovrebbe riguardare la creatività, no? Il piacere individuale. Invece molto spesso diventa un'attività puramente professionale, per cui molti scrittori hanno delle scadenze, hanno degli obblighi, per cui si cominciano a copiare selvaggiamente. Soprattutto diciamo quando sono anche dei nomi molto importanti, quasi un marchio. Prima Vittorio Sgarbi ci ha raccontato che gli vengono commissionati dei prodotti e lui mette una sorta di marchio. Abbiamo parlato anche dei casi di Augias, che forse lavora anche in TV, quindi ha poco tempo, di Galimberti, che è un professore, chissà quanti esami deve fare, e poi anche appunto invece di scrittori come Melania Mazzucco e Tiziano Scarpa, che poi vincono anche i premi, magari hanno anche copiato qualche trama o qualche brano e continuano ad avere però quel premio. È mai successo o le sembra giusto che forse se poi uno ha copiato il premio vada ritirato? Beh, probabile di sì, però guardi, le voglio dire questo, il problema è che le parole che circolano nel mondo, le parole che si sono dette sui giornali, nei libri, sono talmente tante che davvero risalire un po' all'origine, alla fonte, diventa sempre un po' complicato, diciamo. Io credo che la cultura in generale sia anche un grande calderone, dove poi alla fine, diciamo, questa mani pulite della letteratura credo che non serva a nulla, sinceramente. Io credo che alla fine bisogna anche accettare che le parole sono un po' in libertà e ognuno le utilizza come meglio crede, insomma. Ecco, per intenderci, non credo nei tribunali della letteratura. non credo che ci sarà mai una mani pulite in ambito letterario. Certo, è un po' triste che qualcuno, ma guardi, anche Moravia copiava. Anche Moravia. Ebbe anche Moravia, gli indifferenti, diciamo, ma Daniela Marcheschi, la studiosa, ha dimostrato ampiamente che gli indifferenti sono stati copiati da un, e quando dico copiati dico integralmente copiati da un romanziere russo mio di cui adesso non ricordo il nome. E beh, insomma, c'è anche Moravia con gli indifferenti, e ripeto, Moravia era un ragazzino quando scrisse gli indifferenti, era il suo primo romanzo a 20 anni. Quindi figuriamo, se uno copia anche il primo romanzo vuol dire proprio che c'è qualcosa che non va nella mente dello scrittore. Insomma, è una tentazione quasi, diciamo così, quasi voluttuosa. Forse c'è anche il piacere, no, di provare a fare questo colpo grosso, no, di vediamo se qualcuno se ne accorge. E allora ci confidi quel furto che non ha fatto, come ci ha detto, che però le sarebbe una pagina, un autore, uno scrittore vivente o anche trapassato da cui avrebbe voluto copiare una pagina, cioè, una confessione. Vittorini, guardi, le prime pagine di Elio Vittorini, quando dice io ero quell'inverno in preda ad astratti furori, in mille modi diversi, l'ho riportata, me ne sono fatto ammaliare, non sono mai riuscito ovviamente a copiarlo perché l'ho interiorizzato dentro di me, quindi l'ho metabolizzato e l'ho riscritto in tanti modi diversi, però ecco, se dovessi ricopiare una pagina, ricopierei sicuramente quella di Vittorini, quella di Conversazioni in Sicilia. Sì, quello è mi rappresenta pienamente, insomma. Di viventi, scrittori viventi, qualcuno che vale la pena di rubare? No, nessuno, guardi, nessuno. No, è triste. No, non sarebbe davvero cannibalismo fraterno, no, davvero, non ci riuscirei mai a copiare un vivente, insomma, sarebbe atroce, no? Possiamo forse concludere con un adagio che nella società dello spettacolo vale molto, che uno diventa famoso quando poi viene copiato dagli altri. Il suo sogno è venire copiato? No, neanche questo, perché non ho una grande opinione di me, quindi sinceramente mi darebbe un po' di tristezza, insomma, quindi no, non voglio veramente non chiedo questo, no, mi piacerebbe essere apprezzato, ma non copiato. Vabbè, copiato sui diari dei giovani lettori. Benissimo, Andrea Di Consoli, la ringraziamo, a presto. Abbiamo ascoltato un alunno, reo confesso, Vittorio Sgabbi, che ci ha fatto capire cosa può succedere, perché la mamma ti porta il compito già fatto, tu ci metti la firma e poi appunto ti prendi anche un brutto voto dalla maestrina. Andrea Di Consoli, uno scrittore che ci ha invece raccontato che non vuole mai copiare, non copierà mai, ma non dobbiamo fare, e questo è molto importante, la mani pulite della letteratura. Perché? Forse perché nessun premio letterario riuscirebbe a scamparla, forse perché salterebbe in aria tutto il sistema editoriale che campa di premio Strega, premio Campiello. E a proposito di premi letterari, e a proposito del premio Strega, che più importante premio letterario italiano, ne parliamo con una figura ormai appunto storica, anch'esso, nonostante la giovane età, Stefano Petrocchi, coordinatore del premio Strega della Fondazione Bellonci, che tutto l'anno porta la letteratura nelle scuole ai giovani lettori. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Ti ringraziamo di essere venuto qui, perché è una piccola imboscata. Adesso ascolteremo assieme due righe tratte da Guerra e Pace e da Vita di Melania Mazzucco, premio importante, Strega, di qualche anno fa, che effettivamente si assomigliano un poco. Ascoltiamole assieme. Guerra e Pace. Dovrei chiedere di nuovo la sua mano, essere magnanimo o qualcosa del genere? Si mise a gridare con asprezza. Sì, è molto nobile, ma io non sono capace di andare sulle brise de monsieur. Vita. Dovrei chiedere ad Agnello la mano di Vita? Essere comprensivo o qualcosa del genere? Si mise a gridare con acrimonia. Sì, è molto nobile, ma io non sono capace di brucare nel piatto di Rocco. Allora, Stefano Petrocchi, è un déjà vu questo? Com'è stata la sua impressione quando sono state rilevate queste piccole somiglianze? Ma direi che, siccome si trattava di più di due righe, mi sembrava che in quel caso più di due indizi facessero poi alla fine una prova. Cioè, in altre parole, mi sembra che nel caso Mazzucco Trastoie ci sia stato quel chiaro riferimento testuale che può farci decidere se c'è stata o no una ripresa. Riferimento testuale che per esempio mi sembra mancasse nell'ultimo caso di Tiziano Scarpa rispetto al racconto di Anna Banti, dove potevamo parlare di un'ambientazione simile, di atmosfere in gran parte riprese, ma dove non ci fosse in realtà un indizio testuale vero e proprio che ci facesse parlare di una derivazione di un testo dall'altro. Quindi per un premio così importante, per il premio Strega, nell'epoca di internet, non più di Gutenberg, dove si è più facile anche controllare se ci sono delle citazioni, diciamo, non circostanziate, come nel caso di Melania Mazzucco. Ecco, forse una piccola postilla nei regolamenti dei premi, e qui parliamo del premio Strega, che insomma è importante, visibile, fa vendere molte copie, forse una di quelle piccole postille scritte alla fine dei foglietti informativi, le avvertenze da leggere attentamente, gli scrittori sicuramente leggono attentamente, forse andrebbe messo che più di due o tre righe del proprio autore preferito, Tolstoj nel caso della Mazzucco, insomma andrebbero almeno citate. Che dice? Ma noi sappiamo che in altri ambiti, per esempio quello musicale, si ricorre a un sistema quantitativo, nel caso famoso del plagio, o perlomeno dell'accusa di plagio di Albano a Michael Jackson, sappiamo che sono andati a verificare quante battute erano state riprese da un brano all'altro. Non so se in letteratura si può fare, ci sono degli autori che, per esempio, penso ad Antonio Scurati, nel libro precedente all'ultimo che ha concorso allo Strega, una storia romantica, dichiarava alla fine tutta una serie di materiali ripresi dai più vari autori. Questo direi che è una cosa apprezzabile, un'onestà appunto che andrebbe più perseguita da parte degli autori, e credo che sia anche ormai largamente autorizzata. Lei dice bene, Mastrantonio, ci sono oggi c'è la possibilità di avere un controllo maggiore su quanto viene scritto attraverso internet, però è anche vero che siamo in un'epoca un po' satura di storie, che quindi è quindi facile immaginare che alcuni temi o brani di storia possano essere ripresi da una cultura all'altra e viaggiare molto. Ecco, io non mi scandalizzerei tanto di questo e tenderei un po' a smitizzare l'autorialità del testo. Ci sono le storie e forse ci possono anche bastare. Benissimo, ringraziamo Stefano Petrocchi che ci ha parlato anche di un premio Strega dove c'erano delle citazioni non svelate, non autorizzate. E allora torniamo alla domanda che ci eravamo posti all'inizio di questo time out. Si può copiare, lecito copiare? Abbiamo sbagliato noi quando a scuola eseguivamo gli ordini non copiare? E soprattutto, se poi si viene scoperti, cosa succede? A Lutazzi non è successo nulla, Saviano non aveva copiato ma è stato persino portato in tribunale e poi ha vinto. E per quanto riguarda i premi letterari, certo, Di Consoli ce l'ha ricordato, persino Moravia per gli indifferenti si era ispirato ad uno scrittore russo a noi sconosciuto. Nell'era di internet, questo ormai è certo, l'abbiamo capito, se qualche volta non si rielaborano i testi, se il CTRL-C, CTRL-V è fatto in maniera meccanica, si viene beccati. Quindi le regole stanno cambiando? Beh, il gioco si sta facendo più duro, è difficile copiare o ispirarsi ad altri autori senza dichiararlo, si può fare, ma non bisogna farsi beccare. Oggi il nostro time out è finito, io sono Luca Mastrantonio, ringrazio Alessandro Chiappini in regia e vi ricordo che time out è un appuntamento del sabato e la domenica mattina alle 9:30. Grazie.